America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ieri abbiamo parlato di borsa, oggi parliamo di politica estera, perché devo dire che di nuovo l'amministrazione Obama si trova in difficoltà su almeno tre fronti, che sono poi gli stessi che abbiamo analizzato durante il viaggio di Obama, e cioè l'Ucraina, l'Iran e infine il processo di pace in Medio Oriente, che già la settimana scorsa ha dato segnali di gravi difficoltà. Ma cominciamo da queste dichiarazioni del segretario di Stato John Kerry. In the last 48 hours, Russian provocateurs and agents operating in eastern Ukraine. Ecco, Kerry lancia qui un'accusa piuttosto dura, piuttosto diretta, l'ennesima accusa nei confronti di Mosca, che secondo gli americani sta organizzando una destabilizzazione dell'Ucraina per cercare di conquistare quanto più territorio possibile. Qui dice Kerry, dice: nell'ultime 48 ore provocatori e agenti russi sono all'opera nell'Ucraina orientale e sembrano essere stati mandati con l'obiettivo di creare il caos, dice Kerry. Il coinvolgimento della Russia nella destabilizzazione del paese e nel sostenere le forze separatiste è chiaro ed è fortemente allarmante. Dopo che ci fu quella telefonata, lo ricordate, quando Barack Obama era in viaggio in Arabia Saudita, improvvisamente Putin lo chiamò, sembrava che Putin così volesse evitare una escalation di questo confronto da guerra fredda. Ecco, improvvisamente si è tornati indietro, cioè, devo dire, Putin è inarrestabile in questa sua creatività. Mi ricordo che durante questo viaggio parlai con uno dei più alti funzionari dell'amministrazione della Casa Bianca e gli chiesi: ma insomma, come avviene il processo decisionale? Sapete, siete in grado di anticipare i movimenti della Russia? E questo mi disse: ma no, non siamo in grado di decifrare o di capire quali saranno le mosse, per una semplice ragione, che decide solo una persona ed è Vladimir Putin. Non esiste un processo collegiale o comunque vagamente pubblico, di modo che si possa capire quali sono le possibili direzioni che sta imboccando la Russia. No, è Putin che improvvisamente imbocca una strada e non si sa mai bene quale possa essere. Per questo la sorpresa degli Stati Uniti davanti a questo cambiamento di nuovo improvviso da parte russa. E Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, è pronto a rispondere. Riguardo alla situazione in Ucraina, dice Lavrov, e a chi c'è dietro i disordini nel paese, gli americani stanno analizzando la situazione attribuendo ad altri le proprie abitudini. Come dire, voi avete contribuito alla destabilizzazione in Siria, in Libia e da altre parti, ma questo non significa che se voi avete un certo modus operandi, quello lo possano avere anche altri. Ecco, le situazioni sono ovviamente molto diverse. Qui stiamo parlando di uno Stato sovrano, stiamo parlando dell'Ucraina, stiamo parlando di una battaglia che la Russia sta combattendo per ricostituire dei capisaldi in Europa orientale che possano ricreare quel cuscinetto che aveva quando esisteva il patto di Varsavia, quando c'era la guerra fredda, che sembra appartenere al passato remoto. In qualche modo ci sta riuscendo. Sappiamo che anche il leader dell'Ungheria, che proviene dalla destra, in realtà si sta avvicinando a Vladimir Putin. È un ritorno alla guerra fredda? E su questo credo dobbiamo riaffidarci alle parole di Barack Obama, il quale disse: no, non è un ritorno alla guerra fredda, perché il patto di Varsavia non esiste più, perché la Russia è la Russia e non è più l'Unione Sovietica, perché le situazioni storiche sono cambiate, perché la Russia parte, ha detto Obama, da una posizione di debolezza e non di forza. I will say that we think this nomination would be extremely troubling. Mary Harf, portavoce del Dipartimento di Stato americano alle Nazioni Unite, dice: questa nomina è estremamente preoccupante, si sta riferendo a una nomina iraniana, alla nomina del rappresentante permanente dell'Iran alle Nazioni Unite, dell'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite. Stiamo analizzando il caso, abbiamo fatto presenti le nostre preoccupazioni al governo iraniano. Perché? Perché questa preoccupazione americana? Perché chi l'Iran ha inviato o ha candidato comunque a rappresentarlo alle Nazioni Unite è Hamid Abutelebi, che è stato un membro del gruppo di studenti iraniani che diede l'assalto all'ambasciata americana a Teheran nel 1979. Dunque, insomma, un gesto che l'America può interpretare come una provocazione, soprattutto quando si dovrebbe trattare e negoziare in buona fede a Vienna con le potenze mondiali per chiudere un trattato sul programma nucleare. Infine, Medio Oriente. Ecco, sul fronte medio orientale di nuovo c'è stato un grosso passo indietro, addirittura una battuta d'arresto per quello che è stato lo sforzo nel processo di pace da parte del segretario di Stato Kerry, andato decine di volte in Medio Oriente. Ebbene, proprio quando sembrava che dovesse esserci un accordo a portata di mano per prolungare fino al 2015 il negoziato, improvvisamente le cose si sono interrotte, perché Israele non ha liberato i prigionieri palestinesi che ha promesso avrebbe liberato, perché voleva prima la firma di questo accordo per prolungare il negoziato fino al 2015 e soprattutto perché i palestinesi hanno fatto richiesta di ammissione a ben 15 agenzie internazionali, rivendicando di fatto, al di fuori del processo di pace che dovrebbe essere l'unica sede legittima in cui la Palestina dovrebbe poi convalidare la sua esistenza come Stato sovrano, ecco, al di fuori di questo processo di pace, come già fecero per le Nazioni Unite, hanno chiesto l'ammissione ad altre 15 istituzioni internazionali. Questo per Israele è stato come uno schiaffo, tutto si è paralizzato. E devo dire che Kerry per la prima volta è sembrato pessimista, si sta riunendo in questi giorni alla Casa Bianca proprio per decidere se vale la pena andare avanti, se vale la pena che gli Stati Uniti mettano il peso della loro influenza in un negoziato di pace che finora ha portato soltanto su un binario morto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Sono uscite le nomination per i Webby Awards. Tra i nominati di quest'anno ci sono anche Jay-Z, Beyoncé e soprattutto Pharrell Williams, il quale ha fatto un video lungo 24 ore che è stato amatissimo dalla rete. E dunque, di Pharrell Williams, I Am Happy. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!